Wall Street, I viaggi del lupo. E ci siamo anche questo venerdì 23 giugno, fa un caldo veramente del bestia, diciamo. E questa sera sarà una puntata molto particolare di Wolf Trips, l'ultima della stagione. Faremo una sorta di classifica dei 25 brani migliori più suonati. Abbiamo tanti ospiti che ci aspettano subito dopo. Direi di iniziare subito con un po' di musica e andiamo ad ascoltare subito il brano di Tovi Strike, Say My Name. E lei viene dalla Svezia, se ci portasse anche un po' di fresco non sarebbe male. Jump in our relation, and I don't mind, but when we touch it's elevation. Up, up, up, up, up. Up, up, up, up, up, up. You speak my lingo, we don't need no translation. I never need a break, cause we feel like vacation. Up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. Go ahead and feel what you feel. List of where you've been, no information. And you got me running out, out of patience. Oh, up, up, up, up, up. Got me up, up, up, up, up. I like the interaction, you got my attention. I'm not in love, but I'm loving the situation. Up, up, up, up, up. If you down, don't dare to stop. Go ahead and feel what you feel. Questo era il brano di Tovi Strike con Say My Name. Allora stasera dobbiamo fare un po' l'appello, che abbiamo un bel po' di persone che sono venute a trovarci. Abbiamo Fabio, che è il nostro ufficiale disturbatore. Che ormai sono di casa. Sì, ciao, infatti, ciao, ciao. infatti. E poi abbiamo Sara e Emanuele, giusto? Ciao. E loro vengono in pace, sembra, vengono in pace. E ci vengono a parlare un po' della loro... attività, del loro interesse, che è il blog. Dimmelo tu come si chiama, Sara. Bioma Terra, finalmente. Okay. Da, siccome sono già venuta un paio di volte, finalmente abbiamo anche l'altro. Ok, dai, salutaci almeno, Emanuele. Ciao, buonasera a tutti. Ok, perfetto, perfetto. Poi dopo istituzionale, mamma... ragazza, sei che è serio, no, eh? Ma adesso, cioè, è che adesso io meno... puntavo a un cretino come me, invece mi porti uno serio. No, ma tanto col caldo adesso si vedrà che si scioglie, sicuramente, in tutti i sensi. E dopo nel corso della puntata parliamo anche un po' bene del vostro blog, vediamo un po' anche le nuove collaborazioni, giusto Sara? Sì, visto, esatto, che ho scoperto che state collaborando con un po' di associazioni. Sembra, detta così, sembra un po' tipo associazione a delinquere, una cosa famosa. Perfetto, perfetto. Andiamo a ascoltare il prossimo brano. Quindi arriviamo alla posizione 24, caro Fabio. Te sì, che piaceva la cosa delle classifiche. Stasera noi non l'abbiamo annunciato, ma cosa stiamo facendo? Diccelo, tu che sei il regista. No, l'abbiamo annunciato, però lo ripetiamo anche volentieri. Niente, praticamente sono i brani che ho suonato più spesso all'interno di Wolf Trips, in una sorta di classifica. Quindi dal meno suonato, tra virgolette, al più suonato, al più suonato. Nel senso che come te, no? Che è proprio suonato. Io sono totalmente suonato. Tra l'altro, volevo dirti una cosa, poi dopo chiudiamo. C'è stato un ascoltatore che settimana scorsa abbiamo detto un po' di fesserie, no? Tra cui dicevamo che, sai che parlavamo di reunion, e parlavamo della reunion dei Guns N' Roses. E ti ho detto, no, perché si sono riuniti Guns e poi Roses. Ma sai che è vera sta cosa? No, è vera, devono fare l'album. No, no, nel senso, io avevo detto per stupidata, no? Prima che si formassero i Guns N' Roses, c'era uno che si chiamava Guns, l'altro si chiamava Roses, e poi si sono uniti. E in realtà è vera sta cosa. Abbiamo scoperto una cosa. Io l'avevo detta così per ridere, ma in realtà è proprio vera. Vedi che a volte le fesserie ci prendi? Sì, in realtà si chiamano tipo Los Angeles Guns e Hollywood Roses. Uniti si chiamano poi dopo Guns N' Roses. Porca. Ma chi è che te l'ha detto? Chi è che ti ha confermato? Infatti guarda, no, un ascoltatore, uno che mi ascolta sempre. Infatti io ho detto, figuraccia. Dai, finalmente c'è qualcuno che ci risponde, ci sì, dice. Sì, sì, no, ma quello sì, quello sì. Anche molti in inglese, devo dirti la verità. Infatti, vabbè, non so cosa capiranno. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è Jerry Falk con Purple Feelings. I could be what you need, make you feel purple. Let me see what it's like, you're in my circle. Late at night, in your bed, do I cross your mind? Does the moon call my name? I hear it every time. We could try to make it something. Just tell me where to begin. Cause baby, I wanna feel the heat on your skin. Every day my fists are shrinking. Some poems. We could try to make it something. Make it something. Make it something. Just tell me where to begin. Cause baby, I wanna feel the heat on your skin. On your skin. Every day my feet are shaking. So shaking. Questo è il brano di Jerry Falk dalla Norvegia, caro Fabio. Si per mantenerci belli freschi. Magari, no? Magari. Dalla Svezia alla Norvegia. Magari, magari. E niente, parliamo un po' con Sara e Emanuele un po' del loro blog. Quindi diciamo un po' come si chiama, dove vi possono trovare. Dai, uno tra voi due. Allora, si chiama, vabbè, Bioma Terra. Sì? Si può trovare cercando su internet liberamente Bioma Terra. Altrimenti okay. c'è anche la pagina Facebook che rimanda direttamente al sito, ci trovate anche su Instagram, insomma abbiamo un po' di canali. Perfetto, perfetto. E il, diciamo il, l'argomento principale quindi è la natura. E avete messo qualche post nuovo ultimamente, Sara? Siete un po' no, latitanti. Ah, siamo lati tantissimi. Ecco, ecco, vabbè, dai, vabbè, il caldo, dai, dai. E invece mi raccontavate che stasera andate in un evento particolare. Sì, esatto, andiamo ad un evento fotografico di un'associazione fotografica di Cardano che si chiama... Come si chiama? Pixel Club. No, Pixel Photo Club. Pixel Club. Pixel, tra l'altro, è anche, fa parte anche un mio caro amico che saluto, che è Ricky. Salutamelo stasera. Va bene. Ciao, okay. Ricky. Ricky Delli Paoli, Delli Paoli, non Delli Ciao Paoli. Ricky Delli Paoli. Delli Paoli, ti aspettiamo qua l'anno prossimo. Sì, sì, sì, no, magari lo, un giro se lo fa, dai, dai. Beh, comunque è un evento molto interessante perché ci sarà Isabella, sì? che è una fotografa del National Geographic. Quindi, insomma, ci parlerà delle sue fotografie di natura. Perfetto, perfetto. Sarà molto interessante. Ma toglietemi una curiosità, visto che siete in due a gestirlo, come vi suddividete i compiti del blog? Chi è il capo? Io! No, scherzo. No, nessuno. In realtà ci confrontiamo sempre, cerchiamo sempre di far sì che non ci sia, diciamo, un capo, ho capito. Senso. Ma quindi pubblicate solo post, mettete magari anche foto inerenti con gli argomenti della natura, magari? Sì, sì, magari qualche foto che scatto io, poi lui scrive molto su articoli di natura, sugli animali. Ho capito, va bene, esatto. Va bene, molto interessante. Adesso andiamo avanti un po' con la musica, Fabio, e saliamo alla posizione 23. Sembra ma sì, da dove vengono? No, ma a parte dove vengono, da Los Angeles, e ci spostiamo un po' sul caldo, fa caldo, oh. Sì, sì. E no, sembra di essere, sai cosa? Sai tipo il... come si chiama quella trasmissione che facevano in televisione, no? La... boh, dipende quale intendi. Quella dove facevano la classifica Top musica... of the Pop. Top of the Pop, bravo. Anche a parte tutte. Su Rai 2, mi pare. Sì, mi è partita anche un tipo, non so. Non c'ho più l'incudine e il martello. Mi è rimasto solo l'incudine, non so cosa possa servire nell'orecchio. Quindi vabbè. Siamo alla 23 e vengono da Los Angeles. Però ti esorterei a leggere il titolo. Mi raccomando, il titolo è questo. È quello sotto. Infatti. Però premetto, questo qua è dialetto londinese, The Manchester. No, Los Angeles. Essen Burn and Coyote Kisses. Vabbè, poi... il brano è Show Me, dai. Beh, falla semplice, te mi fai leggere Burn e lui arriva Show Me. Bello fresco che sei. Vabbè, andiamo a ascoltarceli. Vabbè, io volevo lanciare Fabio, ma Fabio non mi seguiva. No, ero in fissa, sai, a una certa età il cervello è stanco. Infatti, ti chiamavo con le mani, ma non c'è stato verso. Ma sai che leggevo l'altro giorno che quando tu vai in fissa è perché il cervello è stanco. A me capita spesso di. Ma ascolta, ma come fai a essere stanco se sei stato 3 giorni in ferie? Vabbè, ma cosa vuol dire? Più stai a casa, più non c'è voglia di fare, ma è normale. Cioè, tu quando sei a casa in ferie non ti senti stanco? No. Porca vacca. No, che poi se lo sento il mio capo, poi mi dice: vieni subito da mano. Così tanto sei stanco lo stesso, non è che ti cambia la vita, no? Però è vero, è la stanchezza mentale. Quindi tu ti fissi su un punto, in quel momento il cervello riposa. Vabbè. Allora diamo un po' i contatti, vediamo un po' se ce li avete lì davanti, se li trovate telefonici o allora altro. Io non arrivo con la vista finale, però mi faccio dare una mano da Sara, eh? Cosa okay. Dici? Okay. Allora, chi ci vuole scrivere su WhatsApp deve digitare il numero 338 222 89 83. Ok, grazie al mio indice che l'ha visto bene, premettiamo. Perfetto. E poi dopo, quindi abbiamo detto stasera c'è questo evento per chi più culturale, ecco, esatto, mettiamola così. Sì, per chi piace la foto, dai. Poi abbiamo un altro evento questa sera, perché come Wolf Trips andrò a fare un DJ set all'Opera Caffè, non mi ricordavo nemmeno più. Penso verso le 11, dopo che finiamo qua, dai, dopo questa caldazza tutti qua. Tutti di là. Allora. Tutti di là, ecco, infatti, sì. Ci spostiamo tutti di là. Ma ci sarà qualche pezzo di questa classifica? Sì. Quindi sì, se ci ascoltate sentite qualcosa in anteprima. Quindi a pezzi, sì. Okay. E intanto è arrivato il cibo, meno male che qua la fame inizia ad arrivare. E volevo ricordare anche qualche altro evento e poi dopo direi che lasciamo a Fabio annunciare il prossimo brano. Però prima volevo dire, quindi il 14-15 luglio, giusto Sara? 14-15-16 luglio. Sì, giusto. Ci sarà l'evento del il festival Mabes. Mabes Fest. Ah, quello che parlavamo l'altra volta. Bravissimo. Me lo ricordo. Vedi in che... cui è stata confermata quindi la serata della Silent Disco. L'evento della Silent Disco. Detta dopo... anche Anti-Ciula Disco. Ma è diventata così, è l'Anti-Ciula Disco. E oltre a quello direi anche forse il Nosocomio Disco, perché. Dove suonerò io come DJ, però questa volta suonerò musica rock, quindi non metterò la musica di Wolf Trips. Faremo roba un po' più Power. Devo ascoltare, così poi ti castagno da vecchio rocchettaro. Sì, però devi venire con le cuffie, mi raccomando. Senza non senti nulla. Quei 3 canali che mi spiegate. Senza non senti nulla. No, vabbè, dai, ne parliamo dopo. Allora, quindi il prossimo brano, che è il numero 22. Qual è, buon Fabio? Qual è? Così detto. Allora, sai cosa mi sembra così? Aspetta. A scuola, quando ti facevano interrogazione il prof di francese. No, hai presente Fabio e Mingo? Gli ha 2 B oggi. Il buon Fabio. Il buon Mingo. Che testa di Mingo. Domingo. Vabbè, quindi adesso lanciamo il prossimo brano. Lanciamo questa canzone, perché sennò tra mezz'ora siamo ancora qua. Il numero 22. Infatti. Allora, il numero 22 c'è. Sacra. Ok. No, è giusto. Sicuro? È giustissimo. Con The Call. Questo lo so, Tra l'altro ho parlato anche con i tizi che l'hanno fatto il pezzo in francese. Non so cosa abbiano capito, perché io scrivevo e traslavo con Google. Quindi. Chi è che non lo fa? E no, erano molto contenti in realtà del fatto che abbiamo suonato il loro brano, ci hanno anche ringraziato. Quindi andiamo ad ascoltarci Sacra con The Call. Steady all the way up. Questo era il brano di Sacre con The Call, un brano elettropop molto, molto interessante. Ti piace, Sara? Certo, l'abbiamo sì, presa sì. Impreparata, no, c'è. E allora, devo dire che quella dopo... Ti piace molto? Aspetta, non so. Sì, è quella sì, dopo. Sì, è quella dopo. È quella dopo. Mi piace tanto. E dai, allora, facciamo così, annunciamola. Tanto, guarda, di qua, di cose da dire, da parlare per stasera ne abbiamo veramente tante, quindi possiamo andare subito con un po' di musica. Lancia pure il brano dopo. Allora adesso Jacob Banks, Chainsmoking. Ok. It's getting harder to breathe. Chainsmoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your lungs. Chain smoking your lungs. I know my lease is up and the bailiff's at the door, and still I'm hanging on to the life we had before. I know this cold in love won't lead me to the Lord. Although I'm black and blue, I'm begging you for more. It's getting harder to breathe. Chain smoking your love. Can't be good for my sanity. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. Chain smoking your love. We watched the water rising, waiting by the shore. Take me on top of the world and leave me the floor. You say we're meant to be, but I've seen your Odyssey. I'll be a casualty when morning comes. E questo era Jacob Banks con Chainsmoking. Lui è della Nigeria, penso un po'. No, aspetta, perché non parli? Dimmi. Non si sente niente? No. Ah, ok, cosa stai dicendo? Aspetta, niente. C'è un po' di follia, non lo so. Avrà qualche rientro in cuffia. Sì. Ok, ok, no, boh, non, c'è stato un attimo di follia, un attimo di scalpitazione. Tanto è arrivato il cibo per me, voi non l'avete voluto. Un odorino di pizza in giro. È così. Stasera occhio. è la serata quella prima delle vacanze, è come l'ultimo giorno di scuola oggi, no? Sì, è tutto permesso, qua c'è lo sciallo puro, birrette, pizza. Sì. Ci sta. E torniamo un attimino seri, Fabio. Ecco, allora hai sbagliato persona. Infatti non parlo con te. Parlavo un po' con Sara e Emanuele. Mi dicevano che da poco è nata una collaborazione. Parlatemene un po', va. Allora, praticamente l'Università dell'Insubria ha varie associazioni studentesche, di cui appunto una dedicata alle scienze ambientali e naturalistiche, che si è un attimino interessata al nostro blog e ci ha proposto una collaborazione in cui praticamente facciamo da stampa per questa associazione, quindi pubblichiamo i loro articoli. Esatto, interessante. Ma cioè, loro praticamente, fatemi capire, vi danno il loro materiale da pubblicare sul vostro blog e in cambio cosa vi permettono di avere? Allora, ci danno completamente carta bianca su cosa pubblicare. Okay, loro okay. Ci danno invece gli spazi, nel caso i finanziamenti. Insomma. Non male. Infatti, c'è una collaborazione, però. Bel accordo. Infatti, non è male. Bravi. Quindi fate un passo in avanti col blog, dai. Non è una brutta cosa. Piano piano. Pensa che siamo nello stesso studio con persone che potrebbero essere famose un giorno. Sì, infatti. Segnati i nomi. Dite che mi conoscete. È quello pirla. Intanto qua, vabbè, il caldo ormai è inutile dirlo. Sta prendendo il sopravvento su di noi. O no, Fabio? Stavo ancora pensando che figata è Fabio e Mingo. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, ah, io... no, aspetta. Volevo. Tu hai nominato l'Insubria, giusto, per la collaborazione? Sì. C'era un piccolo aneddoto che mi ha detto Sara. Ecco. Questo è divertente. Ma c'entra anche tuo fratello? Aia. Dici, Sara, dici. Allora, illustraci. Praticamente, nella qual è la sala? Quella. Vabbè, è una sala, dai, non è importante. Nell'edificio del. Sì, quello in via Dunante. Esatto, dell'Università di Varese. L'ex manicomio, dove io ho studiato per un bel po' di anni. Ci sono ancora le foto del Rock in Subria 2010. C'è ancora il Domenico. Il Mingo. Che suonano. Lì è il Felice e il Mingo anche. Felice e il Mingo, ma c'è Fabio, Mingo e Felice. Perché praticamente noi suonavamo come Brain Shocker all'epoca, sì, ma sì, tipo, non so, una spalancata di anni fa. Sì, 2010 c'è scritto lì. Sì. Anni. È passata. No, ma poi tra l'altro non è periodo che acqua sotto i ponti, proprio adesso non passa niente sotto i ponti. Quindi... Sì, c'è un'afa impressionante. Però vabbè. Stasera non ho ancora visto le zanzare, cioè le mie amiche mi mancano. Perché hanno caldo anche loro. Ah, ok. Sono andate al condizionatore. No, anche ma loro. Ho mangiato tanto zucchero, così ho detto almeno se stasera mi pungono, sangue dolce. Ho fatto apposta per loro e invece mi hanno deluso. No, gli viene il diabete e muoiono. Infatti. Potrebbe essere una soluzione, non è male. Vabbè, continuiamo un po' con la classifica. Alla 21 scommetto. No, siamo arrivati alla 20, dai, andiamo un po' avanti. Me ne sono persa una, è vero, ero fuori. Questo qua è un brano super commerciale, devo dire la verità. Però, dato che in Wolf Trips passiamo comunque musica underground, non poteva essere il brano originale. Certo, perché noi guardiamo solo l'underground. L'underground, o comunque qualcosa che non è proprio famoso. E infatti è il remix di BK. Come lo pronunceresti sto nome qua, te? BK, vabbè. La pugliese BK. Big House, che sta perché in pugliese. Infatti. Vabbè, il brano è The Chainsmoker Paris con BK Remix. We were staying in Paris,

Siamo tornati in diretta. Questa è Stalgia BDY Joey Mason Remix. Lui è un remixer di Sydney, ecco. Ecco. Stalgia o nostalgia? Sì, non so, è un po' nome strano, Stalgia, non lo so. Però devo dirti la verità, ho ascoltato anche i brani originali, non sono male. Sono molto particolari loro come musica, come sound, come tutto. Underground. Certo. Intanto certo. Lo butto lì così, underground. Sì, il underground is new rock, così. Richiamando un po' di sai quelle serie TV, no? Orange is the new black, cose così, no? Va bene, dopo aver detto questa serie di fesserie stronzate, ok, possiamo parlare di qualcosa di serio. Va bene, facciamo parlare i ragazzi. Ok, che sembrano molto più preparati sulla serietà. Ok. No, se avete qualcosa da raccontarci, magari state preparando qualche nuovo articolo, qualcosa di interessante. Ah sì, l'ultima novità è che appunto stiamo preparando un articolo sullo scoiattolo rosso in Italia. Sta preparando. Un lavoro condiviso. Che non so se molti lo sanno, ma lo scoiattolo rosso in Italia, ma anche nel resto d'Europa, è praticamente in via di estinzione perché è in competizione con lo scoiattolo grigio. Ma poi lo scoiattolo rosso è quello classico che uno ha in mente, no? Quando pensa allo scoiattolo, pensi proprio. Fatti sulle orecchie. Infatti, lo scoiattolo grigio, io tra l'altro l'ho incontrato anche nei boschi qua vicino a Samarate. Ma scusate, Chip e Chop, che scoiattolo è? Quelli sono Chipmunk e vengono dalle Americhe, mi pare. Mamma mia, che preparazione, ragazzo! Mamma mia! Cioè, ma hai sentito che perla di saggezza che ci ha sparato? Sì, ho sentito che era un attimo distratto. Lui è preparato. È la pizza! No, che mi diceva in realtà che non era quello grigio, ma era quello nero che ho intravisto. Ah, ecco. Boh, vabbè, grigio, nero, quello ma che non era magari il diavoletto della Tasmania che ti mordeva le caviglie, no? Quello ce l'ho a casa. No, lo scoiattolo nero è quello calabrese, quindi si sono incontrati, scambiati. Esatto. Infatti, con la cipolla di Tropea, no, infatti sotto la zampetta c'aveva tipo l'anduia, capito? È lo scoiattolo piccante. Ma non doveva essere serio, allora? No, ma è colpa mia, scusate. Vabbè, quindi prossimo articolo. Ma l'ultimo articolo che avete fatto, che ho intravisto qualcosa di interessante, cos'è che parlava? L'ultimo era quello che ne avevamo parlato qualche volta fa. Sì, vabbè, non sul fa niente. Maltrattamento degli animali. Un'intervista che ho fatto al fotografo Eric Colombo, okay. Che tra l'altro ci sarà stasera perché lui fa parte del Pixel Photo Club. E è stato un articolo molto interessante perché lui ci ha presentato il suo progetto fotografico. È molto bello. Lui sta facendo anche adesso una seconda fase del progetto. E insomma, sempre progetto fotografico, quindi. Sì, sempre comunque su questo tema, sugli animali e sul loro maltrattamento. Ma da quanto tempo è che fate questa attività? Giusto. Allora, l'8 giugno mi pare, un anno. Quindi insomma è un anno. Io che scriviamo. Cerca gli applausi dentro la regia. Fai partire degli applausi. Hanno fatto un anno, ragazzi. Mamma mia. Tu pensa che io parto un'infinità di blog, dopo un anno sono già morti tutti. No, è vero. È perché sono tutte cazzate, come faccio io? Ogni giorno ne invento una. Quindi, devo dire, onore al merito che sono riusciti ad andare avanti un anno e avere anche già qualche collaborazione importante. Quindi sicuramente ci risentiremo poi dopo a ottobre, quando riparterà Wolf Trips. E ci racconterete un po', ci aggiornerete un po' sulle vostre nuove attività. Va bene. Ok. No, ma tra l'altro l'ultima cosa che mi era venuta in mente, tu non volevi fare un cine qualcosa? Sì, un cineforum. È dura, vabbè, è dai, un po' dura. Facciamo però così, ne riparliamo a ottobre. Va dai, bene, facciamo va così, bene. Lasciamoci così. Intanto che attivo il cervellino di Fabio per trovare le prossime argomentazioni successive, lancerai il prossimo brano. Ecco che si è attivato. Perfetto. È fritto. Okay. Passiamo un po' sul hip hop elettronico. A che posizione siamo? Che mi sono perso. Aspetta un attimino che dobbiamo aggiornarci. Siamo alla 18. Ah, 18. Siamo sotto i teen, eh? Sì. Ragazzi, questa qui è già fuori il mio campo. Sotto i 18 c'è l'arresto. E lui è Goldlink con Fall in Love. Don't wanna love, fall in love. to let that drop one tape, two tape. Brand new, can't even get a hold of the nigga pose with a man that's like that. Smooth nigga, do no rapping. No girl, five star, she an actress. She so used to that life so plastic. By the lake, LA like magic. Spit rapid, no clan, just glances. I been happy. Then I told her, baby, fall in love. Hitting up my mans that I be coolin' with. Hooligan, girl, I told you I ain't one to foolin' with. Not communicating, but I get that from my mama. It's a jungle of gorillas, why you fuck with anacondas? I'm a Zulu Nation rapper, get the hammer like your honor. Keep it moving for my partners, ain't a hoovin' in me. Casa ain't a hoopin', she just bouncing at the juicy. But I'm Fanta, got the juice, and then I lost it. I put two in my deposit last week. But I made that cat, we black sheep. Ay, do not fall in love with that nigga rap sheet. Ay, you know I'm just out here really tryna pass me. Ay, young Cicero, keep that ish nasty. Ay, I don't know about them, but I do love. This right here, it's that group love. Hey, Tom, what happened to love? This is under you, get your new head. Fall in love, ooh, fall in love. Wish I never did it. I don't wanna love, love. Fall in love, ooh, ooh, fall in love. Wish I never did it. I don't wanna love, love. Allora, piccolo aneddoto che Emanuele prima mi stava dicendo. Allora, siccome siamo a Radio Lupo, faccio questa premessa, no? Sì. Quindi loro guardano gli animali, la natura. E mi raccontava di un avvistamento particolare, no? Raccontaci un po' di questo animale simile al lupo, almeno penso dalla mia larga ignoranza. Raccontaci. Sì, si sta parlando dello sciacallo. E praticamente qualche giorno fa c'era un membro della Lupo che era in giro per i fatti suoi. E con il binocolo ho visto questa strana creatura attraversare il Po. Pensavo fosse una volpe all'inizio. Poi ho guardato meglio e invece è uno sciacallo. Probabilmente viene dal nord-est europeo, asiatico. E gli sciacalli adesso stanno praticamente colonizzando le aree italiane, perché non avendo quasi più la competizione con il lupo possono fare man bassa. Quindi si pensa che è stato... cioè... è stato importato o si è spostato lui naturalmente? No, si è spostato lui naturalmente. Cioè, rendi conto, siccome il lupo non c'è, lui vuole invadere lo spazio del lupo. Mica si chiama Radio Lupo Solitario per niente. Hai capito, ragazzo mio, eh. Poveracci, stanno diventando da soli i lupi, Quindi rischiamo di fare Radio Sciacallo... in gruppo, però. Solitari. No, in gruppo, perché sono in tanti, a quello che mi... No, è giusto, i sciacalli sono due, non sono a rischio di estinzione, se non erro. No, non è solo che è strano vederli qui. L'unica cosa particolare è quella. E poi è anche asiatico, quindi è la colonizzazione asiatica. È un po' come i cinesi. È facile, trovare tutte le palle. Ma c'hanno anche la macchina fotografica, gli sciacalli. Sì, sì. E niente, quando uno vuole dire una cosa seria... Arriva il coglione di turno che si presenta. E poi alla fine niente così. Vabbè, andiamo un altro po' di musica, che poi dopo dobbiamo salutare i nostri due amici di oggi. E dai, annunciala tu, dai. Questo è un titolo facile. Caro mio Fabio. Miseria. Allora, aspetta, questo mi sa che l'ha scritto sciacallo. A vedere le prime due lettere l'ha scritto sciacallo. Ye punto, ma che punto è punto? Point. Dot sarà. Dot. X Squared. Gloss. Gloss. Te lo posso ridire che mi piace. Vai, Squared. Vai. Sì. Gloss. Va bene, dai, lo accettiamo. Caro il mio Fabio. Comunque voglio dirti una cosa, prima avevo la spina staccata. Non ti sentivo. Siamo arrivati al delirio nell'ultima puntata. Vabbè. Che numero siamo? Aspetta un attimino che te lo dico. È un numero brutto, però vabbè, dai, c'è anche lui. La mano destra che va a toccare. Quindi è la posizione numero 17. Tocca questo brano qua, che è IEX Squared con Gloss. questo era il brano di IE Exquired con Gloss. Siamo arrivati quasi al termine della prima ora di Wolf Trips. Oggi, per vostra sfortuna o fortuna, che dir si voglia, Wolf Trips continuerà per due ore. Quindi abbiamo ancora una bella ora da passare insieme. Però i nostri amici di Biomaterra, giusto? Sì. Ci devono abbandonare perché devono andare a un evento molto interessante, a quanto pare, giusto? Esatto. E vabbè, dici qualcosina ancora dell'evento prima di andare, poi dopo. Andremo a questo evento fotografico del Pixel Photo Club a Cardano. Perfetto. Non ricordo la via, però insomma. Vabbè, comunque Cardano al campo. A Cardano al campo, insomma. È ma comunque l'argomento di questo evento è la fotografia. Visto la fotografia naturalistica, mi perfetto, pare. Perfetto, perfetto. Paesaggi. Sì, esatto. È molto interessante, molto interessante. Di questa fotografa Isabella che ha lavorato per la National Geographic, quindi ha fatto anche dei viaggi molto belli, insomma. Quindi anche molto competente, diciamo, nel sì, campo sì. Non è proprio la prima che trovi per strada, no? Esatto. Va bene, quindi io vi saluto e niente, non vi invito alla prossima puntata perché non ci sarà, quindi ci risentiremo poi a ottobre, magari ci saranno molte altre novità. Speriamo. Sì, infatti da raccontare. E niente, aspetto qualche nuovo post allora sul vostro blog, così lo posso leggere anch'io. Va bene, auguriamo a tutti una buona estate 2017. Sì, infatti. Voi andate in vacanza, no? Spero. Sì, ovvio. Dove ve ne andate? Andiamo al mare, per forza, fa troppo caldo. Beh, però dire mare è un po', diciamo, generale, no? Dove andate di preciso? Dove andrai tu, Emanuele? Io sud della Francia. Ah, bello. Camargue, così. Bello, comunque siamo in zona mare, quindi. Sì. Molto avventurosa, però proviamo. Va bene, ci sta. Io in Sicilia, a Taormina. Bello. Vabbè, con questi sogni di mare direi che vi saluto sia Sara che Emanuele. E niente, ci vediamo alla prossima. Grazie di tutto. Ciao. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano che è K-Fly con FML, Fareus Remix. I need to stop. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up lit, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so I'm living out my dreams like gruppo solitario dal 1979 ti regala emozioni rock. Per la tua pubblicità contatta il 349-77-31-166 oppure scrivi a commerciale@radiolupo.it. La tua pubblicità su Radio Lupo Solitario. Quotidiano La Provincia di Varese, dal 2005 in edicola, il quotidiano della tua città. Segui anche l'edizione web su www.laprovinciadivarese.it. Il quotidiano La Provincia di Varese è partner ufficiale di Radio Lupo Solitario. Questa era Floor con Send My Love. Siamo arrivati, caro mio Fabio, alla posizione numero 15. Vabbè, si sale, si il sale. Il buon Fabio. Siamo vicini alla top 10, ragazzi. Quindi sì, siamo sì, lì sì, che sì, premiamo. Sì. Tra l'altro, sentire il pezzo dopo, che non pronuncio niente, ma è uno dei miei preferiti. Devo dirti la verità. L'hai messo solo alla 14. Ma perché non è una. Ho fatto una classifica non tanto di gusti personali. Ho fatto una classifica proprio di quelle che sono state più programmate all'interno di Wolf Trips. Quindi la classifica segue proprio quell'andamento lì. Quanto gli abbiamo scassato le balle agli ascoltatori. Bravissimo, essenzialmente sì. Intanto salutiamo Cree, che è arrivata. Ciao. Ai microfoni. La new entry per la seconda parte del programma. Eh sì, abbiamo fatto tipo il cambio della panchina, no? Certo. È entrata lei e sono usciti gli altri due. Mi hanno passato la staffetta. Sì, infatti. Quindi il testimone. Hai l'onere di avere proprio un'argomentazione intellettuale. Perché certo, il cretino della situazione lo faccio già io. Quindi non possiamo. Ma visto che hai una cultura come me elevata, molto, ecco, parliamo un po' di maturità, visto che siamo nel periodo maturità dove gli studenti se la fanno sotto, sei un po' lì, ma cosa esce, cosa non esce, cosa cosa sarà di noi dopo la maturità. La memoria sono sempre quelli. La terza prova, poi c'è la prima, la seconda è quella della prova che stai facendo. Cioè, per forza. È inutile fasciarsi la ma testa. Ma senti, ti dico una cosa, proprio ti svelo il mistero tipo quello di Fatima. Si parte tutto dalla prima prova e dopo c'è la seconda. Ma e dopo la seconda c'è la terza. E poi c'è l'orale. No, veramente. Ma però c'è anche i crediti. No, ma voi vi ricordate la vostra maturità? Sì, io l'ho fatta due volte, io ho fatto due maturità, sai. Così è proprio più matura. Adesso è come una prugna che è matura adesso, perché è matura talmente tanto. È maturissima. È maturissimo. Cioè, io penso che la maturità, altro che il film La notte prima degli esami, la mia è stata una maturità fighissima, cioè... Io avrei fatto un film su quella maturità lì. Ma tu ti rendi conto che i professori ormai mi avevano da così tanti anni a scuola? Io avrei fatto un titolo tipo La maturità del buon Fabio. Tu pensa che io sono stato un plurialunno, mettiamola così. Ho avuto qualche anno in più rispetto agli altri. Ma non perché, cioè, volessi farle in più, ma perché mi dicevano: guarda, sei troppo simpatico, sì, rimani qua un altro anno. Resta con noi, resta con noi. Infatti mi sembra che l'INPS te l'abbia calcolati nella pensione. Sì, sì, infatti, no? Gli anni della... C'ho due anni in più contributivi. Sì, sì, sì. È un po'... Mi ricordo sempre il prof di francese che mi guarda e sapeva che io non avevo studiato benissimo. Fa: Filippini, si dice i gnocchi o gli gnocchi? E cazzo, sai cosa gli ho risposto io? Prof, io li mangio. Da lì ho capito di essere un figo in quel momento. Però vabbè. Volevo chiederti come l'hai passata la notte. Ma io direi, ecco, lasciamo un attimo di suspense con questa domanda. La notte prima degli esami, ascoltare un po' di musica, perché tanto abbiamo ancora una bella oretta davanti, quindi di cose da dire ne abbiamo. Allora andiamo ad ascoltare Unlike Pluto con Everything is Black. Questo è un brano che passerò sicuramente stasera, perché mi piace veramente tanto. Così allora, mettiamo un po' di tamarragine anche lì dove mettiamo rock, un po' di tamarragine. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes. But I won't sleep tonight. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the nighttime. Maybe you should come with me. And we can kill the lights, hit the lights, let it black out. Black out, hit the lights, let it black out. Black out, hey. Black bird, black moon, black sky, black light, black everything black. Black heart, black keys, black dark. Of mind, children of the night, but it's the only way alive. It's black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the night. Kill the lights, hit the lights, let it black out, black out, hit the lights, let it black out, black out. Te l'ho detto, questo pezzo qua mi piaceva tanto, No, ma è un bel tiro, Sì, sì, un bel tiro, infatti. Secondo me questo qua, se lo deprimiamo a pieni voti. Sì, sì, sì. Sempre rimanendo in alto. Dice che poteva essere in una posizione un po' in alto. Sì, sì, questo qua poteva scalare altre 3-4 posizioni. Ok, ok. Te sei un maniaco delle classifiche, un po' come me, dai. Metti, sì, diciamo, mi piace. Verità. Io sono un catalogatore. Ma tu devi sapere che io, quando ero un po' in età più giovanile, sai cosa combinavo? Facevo le classifiche sulle cassette, cioè mi registravo i brani tipo da Disco Radio, da altre radio più, di emittenti un po' più grosse. Aspetta, qua però voglio tirare una chicca perché molti non lo sanno. No, infatti. Una volta quando tu registravi sulle cassette, prendevi uno scotch, lo mettevi in mezzo dentro nella cassetta dove passava il nastro e da lì schiacciavi rec e registravi su ogni cassetta. Sì, sì, sì, sì. Molti magari non lo sanno perché c'hanno l'iPod. No, ma io sai cosa combinavo? Io registravo i brani, no? Poi me li mettevo tipo su un file, ero già un po' computerizzato in terza elementare, e facevo la mia classifica. Poi cosa facevo? Dato che avevo il registratore, in una cassetta registravo la classifica e nell'altra selezionavo i brani, no? Quindi alla fine facevo una cassetta che aveva proprio la classifica vera e propria. Ti giuro che tu eri già nato a fare il regista. Era una cosa proprio, cioè le cassette uscivano, a parte porcherie, perché comunque registravi magari dentro un pezzo di radi, di pubblicità, registravi un po' di... Però erano, c'era una soddisfazione quando tirai fuori la cassetta. L'Amour Toujours da Gigi D'Agostino? No, era il periodo ancora un po' più vecchio, erano anni 90, diciamo. No, L'Amour Toujours c'avevo già l'MP3. Sì, eri già avanti. No, io usavo ancora le cassette in quel periodo. No, avevo già i primi MP3. Ma ritorniamo un po' alla domanda di prima. Quindi... Che me la sono dimenticata, quindi. Come te la sei dimenticata? Come hai vissuto la prima? No, dai, come dici hai qualcosa. Passato la notte prima degli esami? Com'è stata la tua notte? È stata fantastica. Ci siamo trovati io e altri tre bischeri, io li definisco così, dei bischeri, a studiare fino a tarda notte, penso che state le 3:30 di notte, tra bottiglie di alcol e altro, mettiamola così. Ci siamo alzati alle 6:30 di mattina, che nessuno sapeva chi era, e siamo andati a fare la prima prova. Ma non è che avete trovato anche una tigre nel bagno per caso, no? No, però ho trovato uno scimpanzé che era nudo, magari. Era nudo, sì, sì. E ballava. Sì, ballava. No, comunque è stata una nottata, ma ricorderò sempre, fino a tarda notte con i libri davanti, tra una pagina e l'altra partiva e sbocciavi una boccia di vino, perché il proprietario di casa, da buon calabrese, papà aveva la riserva DOC che veniva dal meridione. Ti ha fatto il vino a piccantino. Era chimico quel vino lì, ragazzi. Bevete un bicchiere di vino, potete vedere il peyote. Quelli che non senti nulla finché non ti alzi in piedi, quando ti alzi in piedi è la fine. No, io ho visto proprio direttamente dopo la secondo bicchiere di vino la Madonna che mi camminava e diceva: Fabio, tu sarai promosso. Io ho detto: vai tranquillo che passo la maturità. Io ho detto a mia mamma direttamente. Grande. Intanto volevo salutare il nostro fornitore della sauna dei Poweri di oggi, perché è arrivato anche lui con amico del sollo, chiamiamo così adesso. C'ho il faretto che mi punta qua sull'occhio destro. Dai, i faretti sono comodi per la luce, ma diciamo che d'estate forse... La cosa buona è che la gente non ci vede, come dico, in questo momento noi siamo un bagno di sudore. Cioè io prima per uscire ho dovuto prendere la canoa, no? Sì, e sì, sono sì, uscito sì con la canoa. Vabbè, invece volevo lasciare una domanda alla Crick e poi dopo risponderà dopo il prossimo brano. Come ha vissuto lei? Dice, scegliene una delle due notte prima degli esami, visto che ne hai fatte due. Io la mia non ve la dico, anche perché è stata una notte molto seria la mia. No, ma tanto arriva anche per te. Ma lui è una persona seria. Io sono una persona seria, anche se non si direbbe. Se sei andato a letto presto, hai studiato tutto il pomeriggio. Bravissimo, bravissimo. Anche gli amici. No, assolutamente nessuno. No, no, davvero, è stato proprio così. È stato proprio così e niente, vabbè. Io direi che dopo queste belle aneddoti, bei aneddoti, lanciamo siamo il prossimo alla brano. Numero? Siamo alla numero 13. 13. Quindi ci avviciniamo un po' alla top 10. Bravo. Andiamo ad ascoltare Xylo con Get Closer, Joy Mason Remix. Questo è Thundercat con Friend Zone. Siamo alla posizione numero 12. Siamo arrivati alla numero 12, Fabio. Siamo sempre lì più vicini. Eh beh, certo, andiamo in avanti, dalla giustamente. Alla 10 faccio io l'annuncio. Sì, al numero... ci siamo quasi, dai. Questo comunque è un pezzo che mi è sempre piaciuto. Lui è un DJ, produttore, che fa musica... In realtà non si definisce un genere preciso. È l'hip hop elettronica, un po'... Anche un po' funky, non ma lo so. Di dov'è? Un po'... Ma di dov'è? Mi cogli, non dico impreparato, ma quasi. Secondo me è in un posto caldo. No, Los Angeles. Infatti fa caldo a Los Angeles. Tra l'altro ha un anno in meno di me. Ma del 1984, anche del anno meno di te, pensa un po'. Abbiamo detto, tutte le ragazze pensavano che eravamo alti, biondi, occhi azzurri, del vabbè, 95. Sì. Vabbè, l'unico lato buono. E tra l'altro il suo ultimo album si chiama Drunk, che non so se sai cosa vuol dire. Bevuta. Bravissimo. Hai visto che la maturità l'ho passata più di voti. E infatti stavamo parlando di maturità, giusto? Certo. E avevi qualcosa? La nostra socia Cree doveva raccontarci un piccolo aneddoto. Avevi qualcosa che hai trovato, qualche informazione particolare della maturità, giusto? Quella di quest'anno? Sì, quella di quest'anno. Sì. Allora, una cosa che comunque... Hanno paccato, hanno cannato un italiano nella prova di italiano. Fenomenali. Tracce. La parola tracce con la I. Perché non si scrive con la I? Oh, guarda che io non metto in dubbio, prima che poi mi revocano il diploma. Ascolta, facciamo un test. Coscienza con o senza I? E senza. Scienza. Scienza è quella Y. Test passato. No. Fammela un'altra, fammela che le so tutte io, vai. Vai, buon Fabio, aspetta, fammi vedere. Con la I, non me ne vengono in mente altre. Dai. Con la C, non lo so. Te ne viene in mente qualcosa? con io a me senza viene in mente un problema, cioè di matematica. No, no, vai. Stiamo parlando in italiano, è il mio pezzo forte. Ho capito di cosa vuol parlare ed è serio il programma. In un campo ci sono 35 pecore e 20 agnelli. Qual è la differenza tra le pecore e gli agnelli? Non lo so, perché poi passa il lupo e se le mangia tutte. Potrebbe essere, potrebbe essere. Io ero alle elementari. Sai cosa ho scritto? Ho risolto il problema nel migliore dei modi. Cioè è passata la Pasqua differenza, gli no, la differenza tra le pecore e gli agnelli è che le pecore sono le madri e gli agnelli sono i figli. Giusto. Sì. A suo modo il lato intellettuale del programma. Vedi? A suo modo una logica c'è. Comunque io è un problema logica. In realtà se io fossi stato in tuo padre, io avrei parlato un attimo con la maestra, nel senso: ma che cazzo voleva dire? Cioè, cosa vuol dire? Qual è la cioè, ci sono 35 pecore e 15 agnelli. Cosa vuol dire? Che differenza ci deve essere? Una cosa, cioè, quindi ci sono delle mele e delle pere. Ma la differenza è devi fare la sottrazione, no, giusto? Più che altro, ma perché? Ma no, ma ragazzi, ma che cazzo ci fai davanti a sto campo? Me lo spieghi? Cioè, c'è tante cose da fare, vai a vedere le pecore. Dai. Ma infatti, guarda, quando studiavo all'università, io leggevo le domande dei problemi. Più che risolvere il problema, mi domandavo: ma che cacchio di problemi ti fai? Cioè, no, io penso, ma chi è che ha avuto una pensata del genere? Cioè, ma perché devi fatti questi problemi? Pierino e le caramelle. Vabbè, vabbè. Lasciamo spazio alla musica, va, che passiamo meglio alla 11, che proprio la sento che scalpita. Sì, guarda, te la faccio sentire sotto. Ah, loro sono i Soul Walks, che è un gruppo molto famoso. Tra l'altro producono anche come Too Many DJ a livello proprio mondiale. E questo qua è il brano estratto dal loro ultimo album e è molto carino, molto elettronico. Sento, andiamo ad ascoltarlo con Missing Wires. We'll be right back. Sale la pressione a questo brano, senti, qua. Senti, guarda. È salita anche proprio la pressione a manetta. Infatti c'è il mio orologio che segna i battiti, che sta dicendo oh, calmati che... Sta avendo un infarto. Sta avendo un infarto qua. Lo stupun, come si dice qua. Vabbè, prima di riprendere i discorsi soliti, in realtà volevo mettere subito un altro brano. Però volevo fartelo annunciare a te, visto che è una posizione importante. Cioè, questa... entriamo nel clou della classifica. Entriamo nel clou, nella top 10, ragazzi. Questa è la posizione numero 10. Prendete appunti, perché queste sono la top 10 del nostro programma. Tra l'altro, devo dirti la verità, è un brano indie questo, electro indie. Molto tranquillo. Quindi cioè siamo arrivati alla top 10, però adesso smorziamo un attimino i toni. Per poi partire a cannone dopo. Per partire a cannone dopo, bravo. Chissà l'ultima, numero uno. Sì, la ultima è molto... Non dirlo! No, ho rilasciato una sorpresa, se no è... E quindi andiamo ad ascoltare la numero 10, che è Diane con Watch Fiction Is For. Che ma è non più la uno deve annunciare lui, scusa. Bravissimo, è vero, il buon Fabio deve annunciarla, perché sennò... Allora, ma volevo evitarmi una figuraccia. Perdiamo i colpi, Alzheimer. No, è che ho fatto lo spoiler oggi. Vabbè, allora, ragazzi, ve l'annuncio perché il popolo chiama e quindi ve lo fare. Allora, sì, numero 10, Diane con Watch Fiction Is For. Che è un po' uno scioglilingua, come ti dicevo. Questo brano dei Diane, Watch Feature Is For, non riuscirò mai a dirlo, è da un anno che lo... lingua. È una lingua tipo tigre contro tigre. Tigre. Giusto per la capra sopra quella cosa lì campa. No, tigre lo potranno capire in pochi, sì, però infatti, magari qualcuno lo capisce. Va bene, lanciamo lì la lasciamo resca. Intendere chi vuole intendere. E chi intenda. Invece chi è in camper sta meglio che intenda. Già. E dopo questa battuta ma solo io e lui le possiamo capire, cioè ormai abbiamo un livello di demenza io e Mingo. No, chiudiamo il discorso esami, maturità, così ce le lasciamo alle spalle. Sì. Tu, ti dicevo, raccontaci un po' la tua ultima, una delle due, visto che ne hai fatte due di maturità, notte prima degli esami. Ma io non ho aperto i libri perché porta male. Però li avevi aperti prima. Vabbè, prima. Ah, ok. Beh, ma c'era quel un... giorno sono uscita, mi sono fatta gli affari miei. Ah, proprio in tranquillità. Io mi sono cagato addosso fino all'ultimo minuto. Sì, sì, infatti io stavo dicendo c'era in stato il vino calabrese, ma infatti gli stavo dicendo, hai fatto gli affari tuoi in scioltezza, però poi magari. Anche perché allora, nella prima è venuta una mia amica a casa e abbiamo un po' guardato qualcosa, ma leggermente facevamo due scuole diverse, quindi cioè tipo uno artistico, l'altro scientifico. No, e ripassiamo insieme. Lei faceva sociale. È un po' come pasta e menta, no? Che parlavamo prima, non c'entrava niente. Ah, lei faceva il sociale, io facevo infatti la sociale, la scuola sociale. Io invece ero i servizi sociali. Visto perché ci siamo trovati qua, ragazzi. No, la seconda proprio l'ho presa proprio blanda, non me ne fregava niente, se passo, se no amen. E invece poi si è passata. Ovvio. Hai visto. Vedi, certe volte, infatti secondo me il consiglio da dare a chi magari sta facendo gli esami è, non dico fregarsene, cioè fregarsene magari la notte prima, i giorni prima no. State no, di viverla con tranquillità, sennò veramente si rischiano ansie, si rischiano tante cose. Chissà quanta gente adesso starà studiando in questo momento. Siamo in un periodo caldo. Allora, ragazzi, volete un consiglio dal Fabio? Il Fabio vi dice: stappatevi una buona birra, tranquilli fino alle 2-3 di notte, e poi domani sono cazzi vostri. Birre, vinello. Vabbè, dai, passerà, dai. Continuiamo con la musica. Questo siamo al brano numero 9. Number 9. Posso l'annuncio io, dai. Dai, annuncialo. Alla numero 9 abbiamo Light You, sì? Dei Cloud Shard. Sì, che non Assimi è Barboni. Sì, no, in realtà è Cloud Shard. Ah. Però non è apprezzo l'impegno, dai, va bene, apprezzo l'impegno. Ma è colpa perché sono dislessico io. 5.5, dai, va bene, 5 riprova la prossimo anno, sarei più fortunato. Questo qua è il brano giusto per viaggiare, visto che io vorrei introdurre il prossimo argomento di quest'ultima mezz'ora di Wolf Trips. Visto che il programma si chiama Wolf Trips, i viaggi del lupo, parliamo proprio di viaggi a sto punto, no? Ormai è estate, vacanze, fa caldo. Hai già prenotato? Sì, abbiamo prenotato. Quest'anno ce ne andiamo. Dove andate? Diteci dove andate. Io dovrei andare nella Calabria. Calabria o California o Emirati Calabri Uniti, non so, come volete. Ma perché che posto vai in Calabria? Tropea. Adesso si mangiano le cipolle. Ah, cipolle e Tropea. Sì, portane sì. Su qualcuna, eh. Infatti. Non so dove mettere, nel senso, o la metto sotto le ascelle perché... Diciamo che viaggiando in aereo è un po' difficile portare su roba. Secondo me ti fanno salire. Sì, non so se mi fanno scemi. Passi dove vuoi. Hai mai visto tipo Airport Security con le trasmissioni sì. Su real time? Mi tengono lì. Lei sta diffondendo la cipolla di Tropea. Cipolla di Tropea che poi dopo ammazzerà il nostro la nostra coltivazione locale. Di cipolla bianca. E tu invece dove te ne vai? Te l'ho detto, ho già prenotato. Vado a New York. Ah, giusto. Ho già prenotato 7-8 giorni. 7-8 anni fa, perché? Sì, no, più o meno per spendere meno, sicuramente. E vado a New York, ho già prenotato, ho preso un bel appartamentino davanti a Brooklyn, al parco di Brooklyn. Tac, 20 minuti a Manhattan, tac. Prendi il taxi per muoverti in giro? No, metropolitana costa meno, tac. per non cambiare le buone abitudini, giusto? Bravissima, bisogna essere sempre tirchi nella vita. Ah, quindi prendi metropolitana, cioè treno e metropolitana per non cambiare le abitudini. Certo, perché tutti i giorni cosa prendo? Treno e metropolitana, quindi. Quindi anche a New York. Treno e metropolitana. Sì, se no si sente troppo la mancanza. Ma tu pensa che c'è una società lì a New York che si chiama Trenord? Infatti volevo utilizzare l'abbonamento che avevo già. Hai viaggio? Certo, hai viaggio. I travel. Invece tu dove andrai? Io non lo so ancora. Come non lo sai? Diciamo, non ancora. In teoria dovrebbe venire con me in vacanza. Poi non lo so, se hai cambiato idea. Andate in vacanza insieme, strano. Non lo sapevo. Non lo facciamo mai. Detto. Avevi prenotato anche per me. Sì. Miseria. È un po' tipo il Cardinal Bertone, no? Che gli hanno comprato un attico, lui non lo sapeva. Strano, non sapere di essere dentro un attico. Cioè, vabbè. Posso capire casa mia che hanno due locali. Dici, ah, vabbè, non lo so, sono 60 metri quadri, un attico. Vabbè, e io direi che dopo. Continuiamo dopo con la storia delle vacanze. Volevo un po' parlare anche se di cosa? Di chi resta qui in città? Perché ci sono, secondo muore me. Muore di caldo. A parte quello, ci sono un po' di cose che si potrebbero fare. Sì, gite alternative, gite fuori porta. Ne parliamo. Lanciamo il brano che è all'ottava posizione. Questo è un brano, diciamo che è un brano che può lanciare bene il buon Fabio, questo, secondo me. Sì, perché diciamo proprio... che sono poche consonanti. Tu infatti, dici. Però c'è un featuring, quindi già featuring sappiamo che. Pitbull, Fettering versus canta spesso. Infatti, c'è sempre lui di mezzo, questo qua. Ma chi è questo Fettering? Non lo da so, dove viene? Ci va a informare. Non lo so. Vabbè, adesso ci ascoltiamo. Alla numero 8, Adventure Club Featuring Sondar. Ok. E la canzone è Breed. Bravissimo. Amber Black Remix. È scritto così, ragazzi. Cioè, non è proprio scritto così. Vabbè, per i non udenti, diciamo che il. Questa era brutta. Voi prendete quattro consonanti e le buttate a caso sul tavolo tipo scarabeo. È A-R-M-N-H-M-R Remix. Yeah. Mortaccilo. Cause Stiamo facendo praticamente la maratona di Wolf Trips. Infatti adesso è una lunga corsa verso l'underground. Sì, sì, infatti i miei ospiti di stasera li sto facendo veramente sudare. Sì, ma anche per il caldo che c'è qua dentro. No, no, è per me, perché ti faccio parlare tanto. Prima è acceso un faretto, mia, ho perso 2 chili di liquidi. No, ma infatti dopo ci verranno a trovare, secondo me, le saune dei poveri. Apriamo Radio Lupo Terme. Cosa dici? La spa. A proposito di terme, di spa, stavo dicendo un po' di cose che si possono fare in città. Fuori porta. Ma più che in città, io penso che noi siamo fortunati in questa zona, infatti. Perché ci sono tanti bei posti da andare a vedere. Infatti io avevo prenotato tipo 3 settimane al Ticino. Ah sì, infatti, sì, ma sì. Con o senza Zanzare. La combinata? Ah, è vero, poi le zanzare lì. C'è Lucio, sì, sì. Il famoso Lucio che dicono che ce l'hanno mai visto. Lucio di Zanzare. Sì, Lucio. È pieno. No, ascolta, stavo dicendo. Proprio l'altro giorno, io e il capo, la mia donna è il capo a casa, ho detto facciamo un giro, una gita fuori porta. Ho scoperto che sopra Luino c'è un bel paesino di nome Agra. Vedi. Che puoi farti una bellissima passeggiata in mezzo ai boschi. Ed è tutta una cosa fatta bene, perché comunque la terra è battuta, quindi non è che passi in mezzo al bosco con le sterpaglie, e hai delle bellissime panoramiche, vedi il lago in diversi punti diversi e vedi tutto il lago sopra Luino. Ma da noi, devo dire la verità, a me Luino piace, solo che fino a dicembre sarà meta lavorativa, quindi sinceramente non è che abbia tanta voglia di andare. Ma tu devi andare sopra ad Agra, sono 1600 metri, non è che lo so, ma già come Monticello, già mi viene l'ansia, guarda, a pensarci. Ma ci sono diversi posti carini, No, io sai cosa volevo dire invece? Ci sono anche tante spiagge, devo dirti la verità, balneabili dalle nostre parti. Perché abbiamo la spiaggia di Monate, la famosa spiaggia dei frati. Ma non tutta è balneabile. Monate è tutta balneabile, non è balneabile il lato di fianco, che è Comabbio. Non lo so, Comabbio confermo. Comabbio non è balneabile. Ok, però io avevo letto anche che Monate non era tutta. Ma quest'anno balneabile. È stata confermata tutta balneabile. Sì, sì, sui perché siti. Perché l'anno scorso, quando eravamo andati, ci hanno detto no alcune zone. No, quest'anno è tutta. E ce ne sono anche altri di laghi. In realtà, Varese non è balneabile. Il lago di Varese e Schirano non è balneabile. E se non erro, però, muovendosi verso Domodossola abbiamo anche il lago di Mergozzo, che è bellissima la zona, è bellissimo anche proprio il lungo lago, e il lago è pulito. E Meina, quella zona lì dove c'è il lido? Il lago di Meina è balneabile, infatti anche lì faranno una traversata. No, Meina no, se non erro Meina. Sai che non lo so. No, lo vedo sull'autostrada. No, Meina è maggiore, no, non mi ricordo. Omegna, il lago Omegna. Di Omegna. Omegna è balneabile, anche lui. È un po' particolare la zona di Omegna, perché è un po' un lago fuori anche dai vari torrenti. Quindi. Vedi, ma poi nel Lago Maggiore ci sono anche delle belle cose da visitare. Sì, sì, ci sono le isole, ecco, anche e io eviterei, l'isola bella, l'isola madre, l'isola bellissimo, dei pescatori. Bellissimo, però le eviterei con questo caldo. Dite la verità. Insomma, aumenta il caldo lì sul lago se non puoi entrare in acqua. Diciamo che chi rimane qua. Vabbè, però qua... almeno hai qualcosa da vedere se non vai in vacanza. Sì, cioè, sì, quello sì, quello diciamo sì. Qualcosa questo. Puoi vedere. Va bene, continuiamo dopo con altre robe da vedere, perché secondo me ce ne sono ancora tante in zona. Tutto cost. Allora, il prossimo brano, che è il numero 7, è Big Gigantic con All of Me, Naderi Remix. Back in the day, I used to say I viaggi del... My baby's a freak like me and she knows just what I like. She carries all the keys to the places that no one dares to find. She won't tell nobody what goes on within these walls. If they talk, they probably tell you all about love. Nombe con Freak Like Me, e anche lui da Los Angeles. Molti artisti, devo dirti, di Wall Street, sentiamo spesso che vengono da là, eh? Vengono da Los Angeles, ma secondo me è perché è una zona dove si produce molto, deve essere molto viva musicalmente. Musicalmente si sperimenta anche molto, perché da noi in realtà è un po' chiusa la sperimentazione. Arriviamo sempre dopo. Arriviamo dopo. Vabbè, non è detto che sia un male, perché tanta roba comunque è bella da noi. Gli altri la provano e noi la miglioriamo. Infatti, non è detto che sia sempre un male. Ma ho notato che anche i gruppi del nord Europa sono. Sì, è vero. Sì, stasera mi mancano tutti quei miei freddi. No, l'abbiamo messa all'inizio, quelli della Svezia, della Norvegia, quella gentaglia lì. E niente. E quindi dicevamo, quindi Monate mi confermi che in realtà è balneabile, sì, giusto? Sì, perfetto. L'hanno messo balneabile, è arrivata la balneabilità. Quindi ovvio, bisogna sempre guardare i cartelli. Quindi se restate in città, andatevi a fare un bagno da qualche parte. Non al Ticino, perché il Ticino è stato spudoraticamente bocciato. No, ma io nel Ticino consiglio di non andarci proprio, perché comunque con le mulinelli, correnti che ci sono, è molto di Loch Ness. È veramente rischioso nuotare nel Ticino. State attenti, e se potete evitatelo. E... no, io volevo dire una cosa. Siccome sì, siamo arrivati all'ultima puntata, no? Sì. Siamo già alla numero 6. Sì. E Wall Street quante puntate ha fatto? Perché io sono qua dalle ultime 3-4. Allora, con questa qua siamo a 16 puntate. Quindi un bel po' di puntate. Sì. Io farei, non so, farei un ricordo per ogni personaggio che è stato qua a fare compagnia. Sì. Tipo dalle prime puntate. Nelle prime puntate abbiamo avuto il caro Andrea Miola. Che sarebbe? Sarebbe un DJ, DJ Power. Ah. Che è un ragazzo molto in gamba. Lui produce musica più techno, tech house, diciamo un po' più dritta, cassa dritta. Però è molto bravo, ha fatto dei bootleg, mi ha mandato anche un ultimo bootleg che ha mandato. Adesso mi guardano male perché dico bootleg, che cazzo è il bootleg? Usa l'è sta roba chi? Il bootleg praticamente è una specie di remix dove si riprende, si uniscono una base di una canzone e la parte vocale dell'altra canzone. Un mashup. È una specie di mashup, sì. Però lì fai due fondi e due canzoni, però... Ce l'aveva spiegato bene lui, mi sa che lo rinviterò, almeno mi rinfresco un po' le idee. Ma io non c'ero. Tu quel non c'eri, giorno, lavoravo. DJ Power, ti aspettiamo, perché sì, vogliamo capire che cos'è questo bootlet. Bootlet. E poi niente, poi gli altri. Bootlet. Per gli altri, guarda, quasi aspetterei il prossimo disco che mettiamo, poi andiamo avanti un po' nei saluti. Socio, è andata. Ma quindi tu ci sarai anche l'anno prossimo? Se mi vuoi, sì. Come disturbatore ufficiale. Come disturbatore, no? Certo. Quindi... io sono un po' come la scimmietta della maturità lì, che dispulcia. Quindi diciamo che ho acquisito un po' di disturbatori quest'anno, okay, mettiamola così. Va. Andiamo ad ascoltare Day con You Right. Questo è un pezzo proprio nigga nigga, te lo dico. Nigga. Sì. Aha. Okay. Right. I ain't with the back and forth, I ain't back and forth, like. Fuck up what you're asking for, but your back and forth, like. But is your man still back at home? He ain't that important, like. You ain't really seen it like that before, not like that before, you like. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on track. You right, you right, you right, you right, you right. Already know what you want, bitch, why you keep hitting my phone? Mm-hmm. Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Mm-hmm. Fuck all the silly talk, mama told me never hit it wrong. Mm-hmm. Certain shit a nigga pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Level up, bitch, like, evidently you dumb. No, the boy ain't no chump. Real nigga don't say nothing. I'ma roll up my skunk, then I burst up like dumb. When your nigga gon' give up? Keep it real, girl, quit fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you right. Nigga think you got it like that when I act like that, alright. I'm about to have to backtrack, backtrack, back on track. You right, you right, you right, you right, you right, you right. Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into. Mm-hmm. Both the friends wanna come with me, tell her good things always come in threes. Mm-hmm. Can't let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for. Not tryna fuck up the vibe, but you got me out by a quarter to five, ho. Say that she feelin' my aura, but never been with a nigga from Aurora. Think like she in Salvadorian, beats like she working so far. Everything going accordingly until she started feeling too important. I couldn't do nothing for her. Before shorty left out the door, she said. When you put it like that, like that, like that, like that. E caro Fabio, entriamo nella top 5 con mamma questo brano mia. Nigga Nigga, come lo definisco io. Nigga, nigga. Era però molto da DJ Power questo? No, no, c'entra proprio no, niente, no, non c'entra proprio niente. Non ho capito nulla. No, no, no, no. Ve lo farò conoscere perché è un ragazzo molto alla mano, molto in gamba, molto, molto bravo. A me è piaciuto molto. E loro erano i Day, che come, come dire loro. Secondo, no, Day. Pensavo Day come i Green Day. No, no, no. Day è scritto proprio come loro. Quindi se dico Day. Loro sono i Day. Come si dico loro loro è una si minchiata così. Chi sono? Sono i loro, sono i loro. Tu chi sei? I loro. Con questo brano che è You Right, a me piace molto, anche se un po' esce fuori un po' dai generi soliti, però in realtà anche questa è Wolf Trips. E questa l'abbiamo messa al numero? Questa eravamo alla numero 5. Adesso quindi saliamo di posizione, ma prima volevo salutare DJ Tinto Giante. Insomma, che il nome è già tutto un programma. Grande. Ma cosa fa il bianchino? Tinto Giante. No, poveraccio. Ha avuto. No, fa la mia macchina. Si fa anche il meccanico. E lui diciamo che ha avuto un po' di problemi con una tinta. E non sto scherzando, è vero? E da quel momento è stato sempre chiamato Tinto, Tinto, Tinto. E allora si chiama DJ Tinto Giante. Vabbè. Lo salutiamo, lui è venuto. Allora, è venuto a fare un'intervista. Ciao Davide! E ha fatto anche, pensa, un live con i giradischi qua in radio. Sì. Ma va? È stato molto bello, lui suona anni 90. Ma non solo la roba anni 90, tipo che si sente in discoteca. Roba tipo anni 90 anche molto più da club. Uh-huh. Infatti ha fatto un DJ set di mezz'ora. Sì, sì. Ha fatto un DJ set di mezz'ora con i giradischi e con i vinili. Si è portato dietro i vinili, i giradischi. Molto abbiamo bella, smontato. È stata una serata molto bella. Abbiamo smontato tutta la radio per fargli fare questa cosa. Infatti mi hanno urlato dietro. Però ho un bel ricordo, dai. È stata una bella. Se viene Tinto Giante, si può tutto, ragazzi. Sì, sì, sì, sì. Ma sicuramente lui tornerà. Tornerà perché poi adesso sta facendo delle serate con praticamente un trombettista. Figo. E lui praticamente non è la solita battuta, lui suona, cioè lui suona, lei suona il piano e lui la tromba, però cioè cioè siamo arrivati al livello più basso di Wolf Trips. No, in realtà c'è questo signor, questo ragazzo che suona la tromba e lui il, mette praticamente delle basi musicali più house, creando un effetto creando questo effetto bello da aperitivo, molto molto bello, bello, sì. Anzi, se sappiamo quando suona da qualche parte possiamo anche, ma io infatti volevo fare, volevo unire le due cose e la prossima volta volevo chiamare entrambi. Anche il trombettista. Perché non è male, non è male. Sì, ma con l'acustica qua la tromba ti fa esplodere i microfoni, secondo me. A parte i microfoni, secondo me è il vicino qua sopra che si lamenterà, ecco. Però vabbè. No, la vicina scenderà in vestaglia, in pigiama. Questo è un aneddoto della serata che è venuto DJ Tinto Giante, tra l'altro. Sì, sì. È venuta sempre proprio giù a lamentarsi. Spegni questa musica che devo dormire.

what it wants, your body knows what it needs. You need it too. So will I unfuck me? E torniamo con la posizione numero 3. Abbiamo avuto anche un altro amico che è venuto a salutarci, quindi ci siamo un attimo persi via. Che è passato dentro. Tra l'altro anche ex DJ di Radio Lupo, perché mi diceva che faceva il programma della segreteria. No, della segreteria forse, quindi sì. Un programma molto vecchio di Radio Lupo. Qua dove vai vai qualcuno che è entrato qua dentro lo trovi. Sì. Quindi ci siamo un attimo fermati per salutare lui. Quindi questa qua è la posizione numero 3. Andiamo un po' con un po' di funky. Loro sono i Pretty Sister con Came to LA, quindi sarà LA che sarà Los Angeles, immagino. Certo, tutti da là. E French Horn Rebellion Remix. E loro sono molto forti perché praticamente li vedi con questa tromba. Sai quelle trombe, quelle corna, come posso chiamare, non lo so, quelle tutte arricciate, non so le trombe classiche, no. E loro suonano praticamente house e mixano questa musica qua. Quindi sono veramente molto particolari, mi piacciono molto, mi piacciono molto. Ma adesso noi siamo arrivati al podio, io quello che stavo aspettando. Sì, purtroppo ho saltato il 3, le altre non ti posso non ti posso non dire nulla. Quindi adesso siamo alla numero... Siamo alla numero 2, però prima, aspetta, stiamo finendo un po' i saluti vari di Wolf bravo, Trips. Bravo, ricordiamo chi adesso, sembra allora, quasi ricordiamo... il necrologio, no? Abbiamo avuto come ospite un altro, no, Fabri DJ. Che salutiamo, sì, lui è un DJ della zona di Varese, DJ storico. E mi ha aiutato molto in tante serate. Intanto non so cosa sta succedendo, però comunque mi ha aiutato molto in tante serate. Abbiamo suonato parecchio insieme. Anche lui musica più o meno house, tech house. Però quando è venuto qua, ascoltando le sonorità di Wolf Trips, gli sono piaciute molto. Quindi è venuto qua molto volentieri. Sicuramente che tornerà. Stile fa, scusa che me lo sono perso. Stile house, tech house. Ma è perché fa le bistecche, stack house? Sì, stack house, stile stack house. Infatti lavora al Johnny. Lavora il Johnny Fox. No, ma in realtà questa adesso si è passata a Roadhouse. Ecco, bravo, bravo. L'etichetta nuova è Roadhouse. La casa di produzione. Giustissimo. Vabbè, quindi dopo questa cosa questa che sta... marea di puttanate che sta uscendo stasera. C'è un vulcano di stronzate abbiamo qua. Quindi saluto Fabrizio che ha tolto il like dalla pagina, l'amicizia da Facebook. E... guarda la tua amica Zanzara, l'hai vista? Stiamo combattendo contro un moschettiere. Lanciamo la numero 2, dai, così allora, arriviamo poi dopo alla fine. Alla numero 2 abbiamo Busy featuring Meyer Hawthorne Genie. BZP. Feature Meyer Hawthorne con Genie. questo era il brano di BZP, Gini. Numero 2. Che siamo lì e lì per lì, ragazzi. Ok, ok. Fabio, allora, qua ci richiamano all'ordine. Infatti, ogni volta. Su, muovetevi. Che miseria. Oh, mamma, mi chiudo sempre. Domenico mi è iscritto. Sì. Che la mia mamma non vuole, eh. Non lo so, che dire la tua mamma di non invitarti, di non farti venire qua. E boh, è posto. Fatti mandare il... dalla mamma. Il giustificativo. Il certificato, fatti fare il certificato. Vabbè, andiamo a salutare l'ultimo gruppo che è venuto a trovarci in ordine di tempo, che erano i Murmur Mori. Questo nome è molto particolare, però era. Ridillo. Murmur Mori. No, ridillo veloce. Murmur Mori. È un altro scioglilingua, tipo tigre contro tigre, dillo. E loro praticamente fanno un genere tutto strano, cioè più underground. No, è bello però, sì. Più underground di loro però non c'era, quindi non potevamo non invitarli. Perché tra l'altro i loro pezzi li registrano in mezzo ai boschi, per dirti. Quindi c'è, non so, tipo il gufo che suona, il suono, loro il lupo. Catturano molti suoni della natura. Sì, infatti sono... Fica. E i loro brani parlano praticamente di fiabe, elfi, cose così. Tipo il Signore degli Anelli, quelle cose lì. Sì, dai, diciamo. Lo Svarione degli Anelli. Ci siamo io e te, Fabio. A presenti. A posto. Io faccio il nano con la barba. Che si ride così. Tra l'altro spero veramente di rincontrarli, perché mi sono stati molto simpatici. Hanno suonato praticamente qua, ci hanno fatto proprio un live in diretta. E poveracci loro, anche loro hanno subito, diciamo, l'influenza squagliati. Si sono squagliati. Infatti, del caldo e delle zanzare. Hanno preso anche il rumore della zanzara per il prossimo singolo, sì, scommetto. Sì, con la sberla così. È il prossimo singolo, è Zanzarismo, infatti. È Zanzarismo, ok. E praticamente gli ho detto anche che se sono riusciti a suonare qui con questo caldo, basta, possono suonare ovunque. Cioè, non hanno nessuna barriera più ormai. E niente, Fabio, io direi che annunciamo l'ultima canzone e poi dopo ci saluteremo. Ci vuole un momento di suspense. Sì, ci vuole, guarda, il bianco, ti lascio proprio il bianco, vedi? Okay. Ok. Ragazzi, dopo 16 puntate e le ultime sono andate molto scemando, proprio nel senso che siamo scemi. Sì. Siamo arrivati alla canzone che chiude tutto il programma. Alla numero 1, Portugal The Man, Feel It Still. Perfetto. È tutta vostra. Hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Just my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks. I've been feeling it since 1966. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. Let me kick it like it's 1986. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies, little mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Still. Ooh, I'm a rebel just for kicks. I viaggi del lupo. E siamo arrivati alla fine. Siamo proprio arrivati alla fine anche della nostra classifica dei 25 brani. Poi dopo ovviamente riposterò il podcast, così ve la potete riascoltare, riscaricare i brani, acquistarli, scusate, acquistare i brani, oppure ascoltarteli su YouTube, ascoltare anche le nostre cazzate, ovviamente quelle potete saltare tra un brano e l'altro. Sì, infatti. E niente, io faccio tutti i vari saluti del caso. E come si faceva una volta, dobbiamo far cacciara adesso, perché è arrivato gli ultimi due minuti di programma. Quindi salutiamo e facciamo cacciara. Che cacciara dobbiamo fare? Dobbiamo fare guarda che c'è la porta aperta. Guarda che arriva la tizia in pigiama. No, io volevo la signora con la vestaglia. Allora, girati di là. E urla. Non si sente, scusa. Che fa? Mi viene con i bigodini. No, sarà già detto a quest'ora. Te la consiglio. No, grazie. Ho già mangiato. Io intanto, a parte che rinnovo l'appuntamento a ottobre, quindi ci prenderemo una bella lunga pausa. Intanto produrremo un po' di sigle nuove. Infatti questa qua sarà l'ultima volta che metto questa sigla, lo prometto. Proprio una promessa solenne. Ok, quindi la cambiamo, che questa qua ci ha già annoiato, dicelo. Infatti vorrei fare la sigla. Ci ha rotto le palle. Non con la mia voce, ma vedremo con voci di altri. Così almeno. Un bullet, com'è che. un bootleg. Leg gamba. Boot. Quindi ti butta una gamba. Butta la gamba. Butta la pasta e butta la gamba. Pasta e menta. Volevo anche, come ultima cosa seria, poi dopo ci lasciamo ai saluti, quelli proprio sbacconi. Vi ricordo che se volete venire all'Opera Rock Caffè, saremo lì a suonare una rock night di Radio Lupo e suoneremo anche noi di Wolf Trips un po' di brani. Poi vedremo cosa. Quando è? Tra poco, praticamente chiudiamo il programma e andiamo. Sì, infatti loro sono già lì che stanno allestendo, anzi già allestito dalle 5. Quindi Pina, butta la pasta che andiamo a suonare. Pasta e menta. L'anno prossimo spiegheremo perché è pasta e menta. Infatti, lasciamo. Ma fino a quest'estate non lo saprete. È come finale però di stagione. Però provatela perché a detta di qualcuno è molto buona. Pasta e menta. È come finale di stagione delle serie, no? Ti lasciano sempre suspense. La suspense fino alla prossima serie. Se vuoi sapere perché pasta e menta ad ottobre, ascolta Mingo Trips. E Fabio. Vabbè, va bene, dai. Siamo arrivati alla fine, salutiamo tutti quanti. Sì. Io do un abbraccio a tutti quanti. Sì. Anche se sono abbastanza pezzato, sono cavoli vostri. Infatti. Vabbè, quindi ma ci vediamo in giro per una birra, dai. Sì, dai, non il menù ce l'hai, chiamami e andiamo. No, la cosa che vorrei avere per l'anno prossimo, oltre che dei disturbatori, magari qualcuno che ci porta delle birre, quello non sarebbe male. Ma potremmo stasera hanno fatto servizio a domicilio. Sì, infatti, però stasera abbiamo anche foraggiato noi. Chiunque a un bar può venire a trovarci. Gli facciamo ogni bar è nostro amico. Programma. Se vuol passare qua per un programma, un'intervista, non c'è problema. Basta almeno me ne vuoi. Altro che Wolf Strip, noi siamo Wolf Scrocconi. No, noi testiamo le cose che vendono ai bar. Giusto. Vabbè, questa comunque è tutta un'altra storia, ce ne raccontiamo poi dopo più avanti. Va bene. Allora, Fabio, saluto Fabio. A me è capitato. No, aspetta, che ancora qualcosina da bar mi avessero dato la birra scaduta. Mamma mia, che schifo. Infatti c'erano i vermi dentro. Vabbè, dai. Non vabbè. Chiudiamo in queste cose tristi, dai. Vabbè, io saluto Fabio e saluto la Cri. E mi saluto io stesso. Io ti saluto. Io ci non ti ad saluto ottobre. Perché mi hai già rotto le scatole. E passatevi una buona estate. Va. Ci vediamo dopo la mia vacanza. Anche a te. Ok, buona estate. Grazie altrettanto. Ciao. Ciao a tutti.